il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Dopo aver parlato di formaggi, legumi, pesce e vari altri prodotti alimentari, oggi alla rubrica Il Quadrifoglio vogliamo parlare di carne. L'inverno è un periodo in cui il consumo aumenta e per saperne di più su che cosa arriva sulle nostre tavole abbiamo pensato di invitare alla trasmissione Fabiano Barbisan, presidente di Unicarve ma anche allevatore dell'azienda agricola Nuova Annia di Lugugnana di Portogruaro in provincia di Venezia. E benvenuto signor Fabiano. Sì, sì. Prima cosa, lei è appunto presidente di Unicarve, che è una comunità. Unicarve è Italia Zootecnica, anche il nazionale dei produttori di carne. Ecco, Unicarve è un consorzio. È un'associazione che riunisce dal 1999 tre associazioni che si sono fuse. Io la presiedo dal 2000. E abbiamo continuato, diciamo, a crescere, a progredire con i progetti, con i programmi a supporto della zootecnia da carne. Oggi praticamente riuniamo circa 900 aziende, 870-900 aziende, tutte quante specializzate per la produzione di carne bovina. E tutte quante che lavorano con il metodo, diciamo, protetto, confinato protetto, cioè dentro a capannoni, ed è la stragrande maggioranza è nel Veneto, qualcuna è anche al di fuori del Veneto, ma diciamo siamo collocati proprio nel Veneto, che è la regione dove si produce circa la metà della carne italiana. Voi fate dei controlli, delle garanzie, come possiamo sapere che le carni che arrivano sono effettivamente di alta qualità? Innanzitutto per qualità noi abbiamo coniato su questo termine un percorso che praticamente vuol dire la sicurezza sul controllo, quindi controllo dà una sicurezza e questo vuol dire qualità. Certo. Controllo a partire quindi dall'allevamento, dal tipo di allevamento, come ho detto prima, protetto, dentro a capannoni, dove gli animali mangiano quello che gli viene dato, quindi il controllo è proprio dal fatto che non mangiano andando a pascolare e a bere in pozzanghere, ma gli viene somministrato il mangiare e l'acqua di abbeverata, quindi controllabilissima e controllata. E da questo metodo di appunto allevamento, quindi anche materialmente l'aspetto sanitario al singolo animale viene verificato e controllato con i veterinari liberi professionisti, questo anche per quanto concerne l'uso dei farmaci. Ecco, da noi in Italia, per esempio, il nostro sistema di controllo dipende dalla sanità pubblica. Certo. I controllori veterinari, perché infatti la sicurezza la dà il veterinario dell'ASL, il veterinario pubblico che passa a fare dei controlli, che poi è presente anche nel macello e visita tutti i capi uno per uno man mano che entrano nella catena, diciamo, di lavorazione. L'Italia è nota per essere uno dei paesi forse con la maggior controllo su questa tipologia di... Beh, l'Italia rispetto ad altri paesi, appunto il veterinario è un dipendente, prende lo stipendio sotto, diciamo, l'egida del Ministero della Salute, non dal Ministero dell'Agricoltura come avviene in altri paesi. E questa è una maggiore ancora garanzia. Sì, controllore e controllato in altri paesi è la stessa figura, da certo. Noi sono diversi. Senta, quasi tutti i bovini che vengono allevati in Italia in realtà non sono neanche nati in Italia, cioè non c'è una filiera completa. Questo è vero, e se è vero perché in Italia... Sì, è vero ed è davanti agli occhi di tutti un aspetto, un fatto, cioè le case coloniche che si vedono nelle nostre campagne sono tutte abbandonate, tutti ruderi. Ecco, queste case 30-40 anni fa avevano il contadino, il certo, contadino certo. aveva la stalla, nella stalla le vacche, i vitelli, c'era un lavoro, diciamo, in agricoltura, ma che anche supportava la famiglia contadina nei bisogni, nei valori, nei soldi, in quello che aveva da avere certo. necessità. Diciamo che con l'avvento della meccanizzazione, con una tipologia di vita migliore, si sono spostati, sono emigrati questi contadini nelle grandi città a risvolto industriale, hanno mm-hmm. abbandonato le campagne, chiuso le stalle e si è perso un patrimonio di vacca, ipoteticamente vacca nutrice per adesso. Ma le vostre stalle, le stalle anche più grandi, non hanno questa filiera completa? No, quindi stiamo parlando della vacca in senso proprio produttrice, oltre che del latte, anche del vitello. Certo. Ecco, quindi se non ci sono le vacche, chiaramente non si possono avere i vitelli. Chiaro. E in Italia non ci sono, o molto poche. In Italia è un settore che è stato abbandonato, diciamo, via via nel dopoguerra, fino a metà degli anni 70. E quindi da dove arrivano i nostri vitelli? Arrivano da dove invece la politica, da dove, diciamo, il supporto all'agricoltura è vero, ha fatto sì che continuassero a esserci la presenza delle vacche, la Francia specialmente, addirittura è stata migliorata la genetica via via negli anni e la Francia oggi è il miglior produttore come genetica al mondo certo. per genetica da carne. Bene, ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Deck the halls with boughs of holly, fa la la la la la la la. Tis the season to be jolly, fa la la la la la la la la. Don we now our gay apparel, fa la la la la la la la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la la la la la la la la. Blazing you'll be for us. Strike the harp and chant the chorus. Follow me in merry measure while I tell of Yuletide treasure. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Fabiano Barbisan dell'azienda agricola Nuova Annia di Lugugnana di Portogruaro e di Unicarve e stiamo parlando appunto di bovini. Voi avete anche lanciato delle campagne per la conoscenza anche della bistecca che arriva nei nostri piatti e anche c'è un'iniziativa che si chiama Lo Scrigno delle Carni che porta direttamente la carne da allevamenti selezionati nelle famiglie che la richiedono. Oltre a fare dei convegni, delle conferenze, quindi chiacchiere, diapositive, scrivere, abbiamo anche messo in pratica e dato la possibilità con un'azienda che ce l'ha richiesto, per esempio la CRAI, l'Unione di Cooperative CRAI, mm-hmm. di dare la possibilità a loro che non erano attrezzati, la CRAI è un sistema particolare di piccoli negozianti che si sono messi vicino con il loro marchio, e quindi creare la possibilità di avere, il termine è lo scrigno delle carni, appunto una quantità di carne con diverse tipologie di tagli, confezionata in sottovuoto con un sistema skin si chiama, cioè si toglie la pellicola, praticamente si ha la bistecca, si ha il porzionato, bistecca, bocconcini, hamburger, cioè i tagli vari, e questa attività ha iniziato appunto e sta continuando con i negozi CRAI, praticamente dove viene richiesto dal consumatore che va là e chiede, c'è un percorso poi anche su internet dove uno cerca in Unicarne, entra nello scrigno delle carni e ha la possibilità di avere l'ordine e farla portare anche nel negozio CRAI sempre più vicino a lui, insomma. Certo. Questa realtà, ecco, attualmente stiamo valutando anche di dimezzare il quantitativo, nel senso che i 5 kg iniziali, cioè lo scrigno, stiamo cercando di portarlo appunto anche possibilmente a 2,5 kg, naturalmente con tagli che andranno a mancare, oppure più specifici, il consumatore chiede, che so, più bistecca rispetto ad hamburger, e si porta a casa i 2 kg di bistecca, insomma. Teniamo presente che la confezione ha una durata di 20 giorni in frigorifero normale, e poi può essere anche congelata e quindi si conserva. Senta, per concludere parliamo proprio di, allora, di acquisto, visto che molto spesso nella grande distribuzione che oggi si acquistano carne, oppure nelle macellerie, quelle che ancora si trovano, come fare a essere sicuri che stiamo acquistando carne italiana e magari anche veneta? È una battaglia di Unicarve, specifica di questo periodo. Unicarve o anche Italia Zootecnia, perché siamo tutti d'accordo come allevatori in Italia, a far sì che in Europa non venga abolita l'etichettatura facoltativa, cioè la tracciabilità che il consumatore in maniera chiara, in maniera certa, in maniera senza equivoci può chiedere al suo bottegaio, al suo macellaio, al negoziante, insomma. Il negoziante accorto, furbo, insomma, che vuol tenere il suo cliente, gliela può dare. Ecco, c'è una forza, diciamo, in Europa che stanno facendo di tutto per abolirla, con appunto l'idea che questa verrà abolita per uniformare il mercato europeo della carne. Tutto sbagliato per noi, perché se le carni sono fatte con modi diversi, sono ottenute con tipologie di allevamento diverse, da noi si fa a mais, il mais dà una caratteristica di bontà, di succosità alla carne che altri prodotti non danno. Benissimo, abbiamo capito qualcosa in più e allora ringraziamo Fabiano Barbizan per questa disponibilità. E auguriamo tutti buona bistecca a questo punto. Certamente, anche perché sotto Natale è proprio da augurare buona bistecca. Va bene, grazie. Lei. Passiamo adesso ad alcune notizie. Con 9.000 imprese e oltre 100.000 addetti, il settore agricolo e agroalimentare, assieme alla pesca, costituiscono uno dei capisaldi del mondo cooperativo italiano. Lo rivela il primo rapporto sul comparto a cura del Censis e dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. Opera in questo settore infatti l'11,3% delle imprese cooperative, con quasi l'8% degli addetti. A livello di esportazioni, il primato dell'internazionalizzazione spetta all'agroalimentare, dove oltre un quarto delle cooperative è presente all'estero, proponendo il marchio del cibo italiano su scala globale per una quota media di fatturato pari al 20% del totale. La terza edizione del Festival Triveneto del Baccalà è stato vinto da Alessandro Breda del ristorante Gellius di Oderzo in provincia di Treviso, con un antipasto di baccalà cotto e crudo con crema di patate affumicate e cenere di verdure. La finale si è tenuta mercoledì 5 dicembre all'antica trattoria Ballotta di Torreglia. Il piatto di Breda ha soddisfatto tutti i criteri di giudizio stabiliti dalla giuria, innanzitutto l'innovazione, la creatività e poi la degustazione, la tecnica, la territorialità e la presentazione. Alla finale erano stati ammessi anche altri ristoranti, in particolar modo da Toni di Gradiscutta di Varmo, in provincia di Udine, i Do Campanili di Tre Porti, in provincia di Venezia, la Locanda San Lorenzo di Puos dal Pago, in provincia di Belluno, l'Antico Brolo di Padova e la Locanda delle Tre Chiavi di Isera, in provincia di Trento. Sabato 15 dicembre, nel centro congressi dell'Hotel Piroga di Selvazzano, in provincia di Padova, l'ARGAV, Associazione Regionale Giornalisti Agroambientali del Veneto e Trentino Alto Adige, nel corso della sua annuale assemblea assegnerà il premio ARGAV 2012 a Ilaria Capua, ricercatrice nel laboratorio di virologia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nonché responsabile del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, che speriamo di avere ospite della nostra trasmissione la prossima settimana. Con questo è tutto, vi rimandiamo appunto alla prossima settimana, vi ricordiamo che potete risentire questa trasmissione sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita.